notizia perché l'avevo fatta così, forse perché può fare non sapevo che non attenta. C'è un'antenna senza massa che si usava in barca, si usavano e sfruttavano lo specchio dell'acqua del mare e così uscivano bene tra una barca e l'altra e cosa, capito? E si è sbadiglio per tutto già. Cosa? Ogni sbadiglio. Non so, sono un po' stanchino che adesso sono già le 11:15. Quando prima mi canteremo il silone 7 di mattina, non ricordo. Mario, spegnete i baracchini, dai. Ai padri di neanche entrato, ma io che spegniamo intorno. E ciao papà Russo, riso Ma io spegnete i baracchini che siete stanchi. Hai fatto le voci che mi ha svegliato proprio il gatto. Ma un grillo, ciao. Buonasera, ma ho finito di mangiare adesso io. Tu sei appena ore piccole. Ore piccole, oddio. Diciamo che tardo, ceno tardi e mi alzo presto tra una cosa e l'altra, quindi insomma ormai il mio ritmo è quello. Diciamo che ho un bel di roba da mangiare, vi pone un bel ufficio. No, oggi una pasta asciutta al volo, così giusto per... Ero tanto senza mangiare una pasta asciutta la notte, Gianni. Io sono tanto senza mangiare il vino, ho quello di una pasta di 11, quindi non la devo fare così. No, io invece l'ho fatta fare con un tonno, poi ho messo un po' di olio piccante perché a me piace, il pepe e il parmigiano sopra. È già buono, anche così. Sì, ma è buono anche col tonno, mi piace anche a me. Ma di oggi sono una vita che non li mangio, prima andavamo in giro con gli amici, poi uno di noi faceva di uno, ci venite a casa, che sono solo, dobbiamo una pasta di uno, e io spiegati in greppa andavamo per fare la pasta, e via tutti a mangiare la pasta ai 4 di mattina. È così, vabbè Tonino, sta a posto? Sto a posto un cavolo. Ma la macchina da me sono uscita con la piccetta, ok? No, purtroppo. Se mi è andata bene, se mi è uscita la ruota, me ne vado a una baranza. Mi ho fatto 20 metri col disco per terra, perché prima poi ce la vado a braia a fianco. Adesso mi hai fatto ricordare una scena di mio nonno, ma allora credo che succedeva spesso e volentieri una scena del genere, perché non so se ti ricordi, mio nonno, vabbè, portava il vino per il suo bar, chiamiamolo così, trattoria, e la portava da Sedini oppure da Sorso, Senno, di quelle parti lì. Adesso me l'ha raccontato mio padre, lui viaggiando a un certo punto vedeva, siccome il furgone era carico di vino, quindi gli è uscito la ruota davanti, sono guardato e dice, si è messo a ridere e si guardano gli ottavi, chi c'è il suracu che ha preso la ruda, e era Edo. La mia l'ho vista che mi ha superato la ruota, se è stata sotto la guardaraglia. Ma solo si è inclinata davanti, ho cercato di mantenerla. E vabbè, dai, mi è andata bene. Comunque, adesso vediamo cosa far fare. Ci ho messo un fricolo sulle basta e ho messo un blocchetto per non lasciare scoperto. No, ma lui non dice, praticamente non ha toccato perché ci aveva preso dietro, no? Quindi... poi l'ha riconosciuta, mi ha detto, ma che è la ruota nostra? Allora sono fermate, quanto mi ha raccontato, ma avendo il peso dietro, magari a tre ruote, non se ne esce una di davanti, riesce a guidare, a frenare ancora, ma la macchina di adesso, avendo il peso davanti, tende a pomparsi, quindi è pericolosa. È importante raccontarlo, che cosa. Beh, quello c'è sopra di tutti, io. E vabbè, è andata così, no? Sapevo dire che devo andare giù. Le macchine sono giù, sono le persone, ma comunque io non mi sono fatto niente, la verità. Neanche spaventato, perché era stato... Allora, siccome da un certo punto sentivo un rumore strano, insomma, allora rallento. E pensare che prima era 160. E quindi sono andato a 40, piano piano, poi di colpo, boom, è uscita la ruota, e vabbè, comunque il meccanico ha tante forze, stavano rubando le ruote, hanno svitato dei bulloni, poi sono stati disturbati, sono andati via, e tu camminando, poi ho spaccato 3-4 prigionieri di Bologna, sono pezzi, e poi è uscita. Perché è strano che esca una rotta così, ma giorno d'oggi, insomma, difficile, però se sono mollate giustamente. Avanti già. Io gli ho detto così, sicuramente la rotta come era mollata, faceva gioco, poi a rigiocare si è smollata. E poi ha troncato i prigionieri. Perché col peso ha troncato anche i prigionieri giocando, così, facendo il gioco che andava io, già gliel'avevo detto a lui, ho detto fa un rumore strano che sta, che mi ha detto no, sono le gomme, perché me le ho cambiate e me le ho messe a seconda mano, non mi pare di le gomme, a me mi sono dato un rumore di cuscinetto, e niente, invece qualche cosa c'era di strano, io... La verità era un po' in tensione la volta che stavi camminando a 160 così, ho detto mamma mia, manco male non decide in chi mi ha detto, se l'hanno matta di più. No, ma Gianni, allora, quando ho preso le gomme, faceva mio casino, le gomme, sono le gomme, perché mi ha detto pure il meccanico, sono le gomme. Il rumore tutt'altro era, poi, quando è successo che dopo è vista la gomma. Quindi, ma ho messo quelle gomme da usate, diciamo, perché la sezione mia era aperta, la macchina mia, per nemmeno un'altra. Non potevo mai non prendere quella sottile macchina, a volte comunque, se ci avrei saputo. Molte cose se ne sai prima, in Spagna non si fanno mai. Sì, vabbè. Dopo si è controllato, non gli ha raccontato tantino che ha messo il triangolo, la macchina di rammissato, ma poco li messa pure a te. Se è passato con un triangolo, se ne è fuggito, l'ho fatto la foto per venire un po' in targa, comunque se vuoi c'ho sempre la foto, vado là, ci sono già anche a partire con la macchina, ando a ritrovare la Iana. Sì, buon triangolo, adesso te l'ho già abito da te. Ah, avanti sì. Ho detto, oggi le comiche allora. No, non è successo oggi, è successo sabato sera. Sì, vabbè, no, non vuoi dire. Mille modi per buglie. È un miracolo che siamo vivi. Non mi hai mai visto tipo l'affare mille modi per morire? Sì, sì, sì, già, vabbè, qualche buco lo guardavo, adesso sono un po' vero, però già l'ho capito cosa, qual è. Sì, non lo vedo manco più io, non riusciamo più a vedere, io lo guardavo spesso, ma ce n'erano di cose, anche facendo l'amore, cose, sono morte, donne. Sì, c'è uno, mi sembra che anche mangiandosi peperone, adesso non mi ricordo in che punto erano dalla terra, comunque credo messicano, una cosa del genere. Ne hanno mangiato troppi e praticamente stava per morire perché era un peperone più forte del dovuto, diciamo. Io ho sperato che erano due ragazzi col carrutto, e quello che l'ha legato lo spago alla macchina, a lui l'amico gliel'ha legato il suono alla pancia, e gira una parte all'altra, una parte all'altra, questo carrutto che è bloccato sotto la ruota di una macchina, e come ha camminato la sua struttura tagliata, per carità, quell'altro che lo doveva far dimagrire, ha visto queste cose qua come si fanno, le ha aperto la pancia, ha pensato di rapporre tutto per 30 minuti. E quello dice aspetta, aspetta, dai, tira il sorriso, aspetta, il cannetto, si è già fiammata, ha tutto il chiodrosico, si è incendiato tutto. Però ne ho visto uno io su internet, ci metteva a 90 gradi, diciamo una candela e l'altro accendeva il cerino e con la fiammata che ha fatto con lo scorreggio accese la candela. Sì, sì, vabbè, ma quelle sono cose già che si faceva già negli anni in cui io facevo le militare. Se ci penso qua eravamo proprio fatti, fatti da legare, mi mettevano le mani al collo e contavo vicino un paio a 100, roba del genere, e poi praticamente cosa succedeva? Mancava l'ossigeno al cervello e svenivi, poi una volta finito davano due schiaffi e ti facevano riprendere, ma se non ti riprendevi cosa succedeva? sera non giù qui in campo. Sì, vabbè, esistono quelle mosse anche nello judo che praticamente ti pressano la vena e vai a svenire. Sono cose che effettivamente non è che si fanno, perché 100 volte ti può andare bene, una volta può andare male, dopodiché non lo fai più. E noi invece ragazzi trovavamo i buchi per terra, ci facciamo la pipì dentro, questo è il carburo e una fila di terrazzi sopra. La sotto pazzia, no, questo non lo sapevo. Abbiamo fatto un altro tipo ancora, non partiva, come è andato vicino a alzare tutta faccia, il cazzino, pacca il giubbai da battuta. No, non sapevo questo, con carburo, la pipì, ma mai sentita. Beh, un grazie, capito, bollita quando tu. Senti carburo, allora, sai com'era? Mi pietti bianchi come tu vuoi accendere il carbone, le diaboline, tipo così era fatto il carburo. Mettiamo dentro, un po' di pipì dentro, come vado a bollire, mettimi il palazzo sopra, ma non serve sempre in cava. Vuoi pure di 5 metri, non ti dici, sai, sai. Ah, ho capito. Allora, carburo, non mi ricordo neanche se sono utilizzato nel corso della mia vita. Credo di sì, però non mi ricordo cosa avevo fatto. Boh. Io non mi ricordo a cosa si utilizzava a questi però ragazzi. Io mi ricordo che aprivano i lucchetti con l'uncino, una cosa del genere. Ehi, con l'uncinetto, con i cosi delle spazzole del tergicristallo, con la lamella che c'era, lo chiamavano lo spadino. Presente di aprire con la chiave della camicina mentre ti facevano qui. Sì, gli afferro. E via. Vabbè, se mi sta chiamando mio figlio, ragazzi, devo andare. Devo riuscire un attimino fuori, devo andare al prato, quindi faccio un po' di orario anche fuori. Quindi ne approfitto da ormai, ci sentiamo domani, ci coincide. Ciao, divertito da tante cose belle. Ciao, sì, ciao, buon lavoro. Adesso devo trovare anche le lucciole. Fino. No, Lucia no, un bel rinfla, però vabbè, è accontentarlo, quindi. Ah, lui vuole da fianco. Allora, va bene, ciao Tony, ci sentiamo, ciao Gianni, alla prossima. Ciao Timo, avanti tu. Ciao Fino, buonanotte, buon lavoro a stagione, ci sentiamo. Bene, Meda, caldo comunque, questo totale qua ci sono stati molto del lavoro. Io ho chiuso le finestre aperte, l'aria che circola sto troppo bene, però ho paura che poi domani mattina si può andare a chiudere perché di mattina ci sono più freddo. Beh, già farei abbastanza, è stata aperta, però l'aria non è facendo nulla. Appagata, no, io devo tappare la tutta aperta. Oh, non me ne ha fottuto gente al dito, poi parla la tessera non di tutto. E quindi tu dici che non ci apposta per questo divino qua, per certa cosa? Sì, io ho detto non è che ci sia molto apposta, perché ci sono tutte le aiuole, capito? E quello, il bancone per dire fuori non ce l'hai, non lo puoi mettere. Ma sopra la veranda il bancone lo lascio, per certa cosa. La voglia, ma cosa pensi che devo pittare sul santo? Però ci hanno, saremo in 3 o 4 persone, va benissimo, al massimo 5. Infatti. E quel tavolo devo tutto levigarlo, poi passare l'impregnante e dopo ci tornare nuovo. Però siccome sopra il fine non lavoro sotto qua. Quindi domani finiamo e poi andiamo a lavorare. Sì, va bene. Tutti mi dici a gara di partito, ma di notte a Riccardino come fai a portarlo? Perché mamma mia, tu zitto di notte, tu dovevo andare dalle 8 in punto, fare la notte, cazzo, dal punto, tutta la notte in punto. E mica restiamo le 2-3 mattine, cioè. Sì, ma per un bambino, ragazzi, magari ci andiamo di giorno, una cosa diversa. Ma di giorno se c'è il bagnante non puoi pescare già lo sai. Si può pescare dalle 8 fino alle 8 di mattina, dalle 8 di sera fino alle 8 di mattina. Io le conosco le regole, ho anche il permesso per pescare, tu ce l'hai. In mare non c'è bisogno di permesso. Non c'è bisogno. Sorry. Il permesso io ce l'avrei con la licenza sulle acque dolci, caro Gianni. Una cosa è la licenza, ma cosa è quella che si fa alla capitaneria di porto oppure su internet? Adesso non lo so se io non l'ho rinnovato con la vita prossima, non l'ho rinnovato, non l'ho rinnovato da dicembre, è scaduto e non l'ho rinnovato. Ma già quante volte si fermava a capire il posto a lui, non è a Pontatani, eccetera. Mai niente ci hanno chiesto, mai. Quindi, quando si vede a fare due giri e passati un paio di ore a presto. E informati. Allora vai su. Adesso non mi ricordo come si chiama il sito. Comunque se mi viene te lo dico, quindi qualche sito dove devi entrare, c'è scritto pesca, tu vai e ti mettere se fai pesca con la cana, se fai pesca con la barca, tutto qua. Quando si sto a demaniare lo fai oltre qui per caso praticamente, dai. No, ma lo fanno più che altro per fare un censimento, non lo so, per vedere la gente che pesca con la cava, la gente che pesca la barca, capito? So che quando c'è stato un pioluccio pescare, loro sono pescare più tipo di pesce, però stavo chiedendo, solo che noi ho c'è una porta fuori, c'è una portata di mangio, una porta fuori. Demanio dell'agricolo, qualcosa del genere, di pesca, del turismo, eccetera, eccetera. Ma basta che c'è il che si può portare in spiaggia, ci si vuole fatto certo, non c'è un po' più da fare. Se non c'è un po' di una calotta, sì, come ho avuto. Allora portava 7 di valide e durava 5 anni. Allora, quando ci faccio mai pescato non mi piace di mano. Io sono anni che pesco il turismo, l'ho rinnovato 4 volte quello lì, quindi non posso saperlo, se non te l'ho predetto. 4 volte l'ho rinnovato. Questa volta, l'ultima volta, siccome io non potevo andare a pescare, non l'ho rinnovato. E ne scadeva dicembre. Però era andato a vedere se me lo potevano rinnovare più, ha detto di no perché c'era, risultava ancora la data dell'anno passato, non, il ministero non l'aveva cambiato, ha cambiato la data e quindi non potevo rinnovarlo. Lo stavano aspettando che c'era un errore praticamente, non avevano cambiato la data, capito? Quindi non si poteva rinnovare, io l'ho rinnovato qualche volta in capitaneria perché io rifornivo l'acqua alla capitaneria e quando stavo qua andavo lì mi davo i documenti e mi facevano un documento scaricato. Poi me lo davano, lo stampavano e me lo davano. Ministero dell'agricoltura, pesca e turismo, qualcosa del genere. Io non pescare quando ero un ragazzino, perché io parlavo di treno, non era ancora forte, con pesca, mi chiedono ancora che venivamo le chiuse rosse, dei treni in Marocco davanti il rosso, altro po'. Eppure una vita quando pescare, andavo con le macchine, che non si va pesca con una cosa di interiore. E poi che si chiama anche l'anno tra parenti, anche il romano, fare barbariccia, fare il campo pescare. C'era anche la nebbia, la pescherista, a macchi, a pescherista, ma comunque ripeto, non ho messo questo, non c'erano chiesto quanto sono mai. Perché la legge non c'è da circolare, questa legge l'hanno fatta un 5-6 anni fa, non è roba di 50 anni fa, metto. E va meglio che lo faccio pensare da questo, non voglio esagerare, ma pure quando ci pensiamo. Sì, grazie, veramente. postale ce l'hanno fatta, che poi non è proprio un permesso, più che altro loro lo fanno, sì, te lo ti controllano questa tessera, perché tu quando vai sul sito poi te la scarichi e te la, e ti rimane il cartaccio, capito? Te la stampi e ti rimane il cartaccio in mano, capito? Loro quando ti vedono per scarico che favorisce, ecco, tu lo devi dare. E c'è scritto tutto, se tu se peschi con la canna, se peschi fai pesca su guardia, tutto qua. Comunque io ho un problema, che mi scarico qua e lo faccio il cartaccio insieme alla proprietà di tutto, non ho problema. Non è come giusto, non abbiamo. Tu pensa che la mia dottoressa deve mandare il cheque con la mia chiave, la mia porta elettronica, e io mi scarico qua e automaticamente col telefonino non è stato qua con la proprietà. Sì, no, ecco, mi sono ricordato bene, no, io abitavo ancora qua, mi sono pensato, che sarà di 7 o 8 fa, non si ricordo. Sai, vabbè, così è, vai alla capitale e vieni, ascolti, ma io devo pescare in mare, pescare con la canna da pesca dalla spiaggia, ci vuole un permesso particolare, loro ti diranno sì o no, se non lo fanno più o se lo fanno ancora, perché sino a 2 anni fa ci voleva. E chiama, lo provano una, non lo provano, e certo, se trovo lo scarico e mi faccio due cose, non so più, non lo faccio. Basta, sarà compilato e te lo te la porto. Ministero Agricolo del Turismo, una cosa... Adesso guardo, se lo trovo le porta pure il turismo con una sicurezza, aspetta. Agricolo non c'entra niente di sicurezza. Sì, c'entra perché si occupa sia della pesca che dell'agricoltura che del turismo. Tutte queste cose qua, queste tre cose. Vabbè, certo, io sono per le porte qua. Gianni, ci mi senti? Registratosi al sito del Ministero delle Politiche Agricole. Politiche Agricole. Vabbè, già mi è capito. Sì, mi sono già registrato. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Beh, ragioni. Papa. Io non ne ho, non sono stato. Aspetta, ma cosa devo dire? Io l'ho fatto compilato. Ente, dunque. Associazione internazionale, azienda, associazione altro opzionale. Ah, tu devi andare dove c'è il pescatore, devi cliccare sulla destra, c'è un pescatore, devi cliccare lì. E poi ti la tutto che ti chiede tutte le cose tue, che ti puoi pescare, fai, tu metti le tutte. Ma ti do il registro, io ho scattato il registro. Bisogna che lo guardi il sito, dai, se no non so come fare. Allora, il pescatore per richiedere il tesserino deve seguire i passi. Importatemi nel seguito, effettuare le sanzioni, c'è la pagina proposta di citare. L'obiettivo di una tragedia di potere preoccupare, da utilizzare il commento, un'intera rimane e una password di doppia scelta per loro sono di campagna. Poi registrati, presentare la casella posta le cose, verificare la legge, messaggio di servizio, portamento, verificare per attivare la casa, verificare poi l'attivazione, la negativa, accedere al momento all'area riservata, per mettere il caso proprio di un'arte, la casella posta le cose, la periferia negativa. Tony, come andare a capitanere se lo fanno? Io avere gira. La capitale via in 2 secondi te lo fa. Poi a me mi conoscono, quindi. Era campo. Se ci sono quelli che c'erano sempre, se non sono ciambati, ce lo facciamo fare, andiamo. Una mattina e via. Certo. Io per il nome sarebbe come io perché. Praticamente sì, come ti per dire, Tonino 59, Tonino quello lì. Questo l'ha fatto. E poi è così. Lo cinque. La faccia inserita non è corretta. Bugiardi! Se o se non l'ha fatto io, ma. Probabilmente lì ce ne vuole un altro. Grazie. diretti rilascia un sedile già. E te rimane praticamente tu vedi che tipo di pesca vuoi fare, tu metti anche tu, c'è scritto pesca nella barca, traina, tutte queste, tu li metti tutti, lo croci su tutti qua. E poi una volta che tu hai risposto a tutto, metti stampa e ti esce in punta. Ma devo andarci con la voce, però io non la trovo la voce di pesca, che tipo di pesca eccetera. Però là quando entri, allora ci disegna un pescatore, più bella così, perlomeno io l'ho stampato anche a Natalino, gliel'ho fatto per la prima volta, gliel'ho fatto io. Poi la stampante non ce l'ho più adesso, quindi non posso fare. Ecco, faccio la canna pesca sulla spiaggia. Permesso di pesca in mare. Licenza di pesca in mare. Esiste? Sì, ma ripeto, già, quante volte sulla pesca non è mai trovato l'unica. Vabbè, ma il mare è grande, non è come un lago o un fiume. Ho capito, ma la legge adesso è quella, tu non devi chiudere lì attorno. Adesso se viene la capitania e ti chiede il costo, ti pone la mucca, se non dirà. Sì, ma giustamente, beh, non paghi niente perché quello di acqua dolce devi pagare un po' all'anno, che ogni 5 anni. Questa non si paga, ma volevano mettere a pagare anche per pescare il mare. Sì, è stata cassa di linea la mattina del mare. E poi c'è l'aggiornamento, 4 marzo 2015. Quello fai. Allora, per cui tutte le licenze effettuate a Pagolo e sono prorogate fino a 31 dicembre 2025. Se ce la fai parla anche a me, ma cos'è nominativo? Se non me lo ricordo se era nominativo oppure no. Ebbene, ho chiesto nome e cognome, era Pastor, era Postre Pure. Ah. Io ho scritto, ci vuole la licenza per pescare il mare e lì ha stato fatto da qua. Ce l'ha fatta a sparire? No, ancora no, non ce l'ho rimasto qua. Aspetta, il continuo, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, qua. Regionale c'è, cioè, c'è cioè, un paro di questo mediterraneo, ecco qua c'è questa costruita registrazione, e ha fatto con registrare, sì, registrazione utente, informazione obbligatoria, nome, cognome, ID, password. Che mese? Verifica il papo, ma c'è che non si va a capo. Gianni, dimmi. Io sto fatto e mi sono trovato qua, cosa devo scrivere, non lo so, ente, azienda, associazione, altro, opzionale, cioè cosa devo scrivere? Altro. Eh? Altro. Altro. Sì, perché io non sono né un ente né un'azienda. Appunto, perciò. Informativa sul trattamento dei dati personali, ex articolo 3, della legge del 2005, sembra una così che mi dico. Se sei già registrato, fai il consiglio. E quindi cosa c'è bene? Tutti i campi sono registrati, salvo dove? Allora, accesso alla comune, torna. E ti stampa a vedere se ti dà tutto qua. Il campionato di interno di polizia di controllo forestale, ma non la stampa già. Però non è finito come motivazione. Allora, però va anche a colui, invece la capitaneria non ci avevano colore, la volta non ha fatto il mio carnello. Perché non ha fatto di nuovo? Adesso mi ti fare una bucciatura e ti preoccupare. E a cosa fare che non lo più? Dice che sono già registrato, però non lo fa scaricare, ragazzi. Se è registrato ti dovrebbe dare solo il tipo di pesca che fai. Ti dovrebbe mettere la scelta, c'è scritto pesca dalla spiaggia, pesca sempre casa, c'è scritto. Poi c'è scritto pesca traina, pesca dalla barca, volentino. Tutte queste pesche qua ci sono, tu le metti sotto, sono tutte quante, di modo che tu le puoi fare tu. A proposito, da oggi che sono da ieri me ne sono accorto già. Adesso ho detto, ho toccato con il salatore a fresco, e se lo torno intorno. Dove lo sei? La rabbia si è abitata al condizionatore. ma le pulite. No, devo pulire il vetro, non lo pulisci, devo pulire. Quelli devi pulire, devi lavare mentre asciugare quelli che devi lavare. Ma non è che perché la prima volta che hai salutato adesso, cioè per questo. Acqua, cosa c'è? Magari ha bagnato il fischi, capito? Dopo il lava di frega, quindi lo lascio aperto, lo pulisci, in modo che asciuga. Ma perché c'è il filtro che lo pulisci? Il filtro bagnato non si mette, ci deve fare asciugare prima. Quello la sua parte di quello che sta aspettando. Sta giù, io lo metto sotto al rubinetto a bagno, lo lavo bene e poi lo metto al sole a asciugare. Ho capito, ma so di no che non c'è l'età. Se io lo metto a faccio la notte, ma non sono fatto l'età. Lo metto con lo spazzolino, poi come nemmeno il titolo, non è una volta che lo posso fare. Sì, non è il lavoro da fare di notte, anche di giorno, naturalmente, per lo meno. Poi tu dai mattini bianchi, ma io lo faccio di giorno, quindi non. Ho capito, faccio il giorno. Ma non ho capito questo odore di tonno. Ma non è che te da poco torre è passato un tutto e si è tirato il sacco da chi è. Sì, è vero. Lui è. No, è che c'è stato qualche scatoletta quando ha fatto la pasta. No, non so. Io ho trovato due stoni qua. Non so se mi guarda. Non sarà pulizia. Capito la pancina. Questa è la porta bagaglia. No, non è. La panda che c'è lui c'è qualche porta bagagli, così di carica lì. La panda, questo è la perché? Non so, ma vabbè, più o meno. Il motore c'è qui. Anzi, la panda è 900. Questa parola è stata sbagliata, forse non è stata sbagliata. Ah, tutti i vini. Se finisco preso con Marco, noi ci andiamo a quel dottore e ce lo facciamo in parte. Anche a Natalino l'avevo fatto, il primo che è uscito di Parmese l'ho fatto a Natalino e quando è uscita la legge. Però bisogna rinnovarlo sempre, vedi quello lo fa mia adesso, signora il valore sono ancora c'è la legge. Guarda, anche ieri c'è una cosa da compagno, c'è l'odore di tonno. Non faccio la battuta. Oggi è filo d'aria, porca Italia. No, io sono la luce della Ruacone, ce l'ho aperta, e ci ho fatto anche quella della sala con la corrente, però non so se mi faccia male. Ma io ho stato male, non è stato il tuo lavoro. Io vabbè, comunque c'è buona quella, quello che stavo dicendo, se l'ha comprato anche Fabio, quella, quello che ci ha rubato, quel cubo. Ma io purtroppo già. Cazzichini da piedi, a piedi, a piedi, scusate. Sì, ma sta dicendo anche Fabio che come di fresco. Oh, ma c'è ancora niente. Non so, bisogna andare a vedere. Ma non lo so dove l'ha comprato Roberto, se un altro, quello che dice Roberto, se è lo stesso di cui. Quello lì, quello obbligato che lo so. Sì, allora è quello. Oggi mi ha detto buon giorno a Lido, e io purtroppo la vita non si può fare. Io sono preso la mente ancora lo spazio. Perché quanto dura? Un giorno solo. Che cosa? Buon giorno. E sono un giorno di un io pensavo di durare tutta la settimana. No, no, no, io devo fare tutto il giorno, basta. Ho fatto lo solo di un giorno di un giorno di un giorno di un giorno di un giorno di un giorno di un giorno di un giorno di un giorno. Che idea ha preso? Che cosa? Sì, già, qui sono la banca, ho detto la propria piccola perché la piccola, ma non lo vedo. Se convengo le sono buone. Già, già. È per la massiccia, per la grande. Sento che non vedo con la piccola della banca. Ma guardando su internet, è uguale l'istica, 220 euro. Forse non la comprerà sto per la cosa, era molto fatto che sia da tutto per il progetto di stare in campo trapani, abitatori, poliziotti, comandatori, ma veramente tuo vivo il corso di un campo di speciale. Dopo tu mi dai, io me ne vado a letto domani, devo andare presto che devo andare a prendere il mio figlio, se no mi scelgo, che non può dare l'esame. Oggi guarda, il tuo giorno non è un'altra cosa. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. grazie, grazie.